vedova nera si gela sotto questa luna piena. Onoriamo una bandiera odiata dalla gente, luci spente, al buio non vediamo la crisi. Abbiamo gli arti recisi, il futuro in mano nostra, abbiamo sogni precisi. A nessuno gliene importa, senza una rotta, la testa è rotta, la mente si contorce nelle anime ormai marce. Molti anni in Italia, senza capire perché sento milionari parlare di fame e metterlo rinneggiano lo stato sociale. Chi dovrebbe parlare si può solo impiccare. Conoscevo un musicista, un violinista per la precisione. La sua arte scioglieva il cuore mio delle altre persone. Persino quando un giorno ho visto il buio oltre la vita, ascoltandolo mi pareva che una speranza fosse esistita. Suonava in un'orchestra, molto aveva viaggiato. L'orchestra fu poi sciolta e lui in strada si è trovato. Nel fondo senza volerlo alla fine ha raschiato. Urlare poi non serve quando tutto il mondo tace. Una droga tira l'altro, un bicchiere sopra un altro. L'archetto fu venduto a qualche negoziante scaltro. E quel violino che nessuno aveva mai suonato meglio, neanche quello gli rimase ma solo un coltello. Una rapina finita male, una corsa all'ospedale, ora più un fiore di loto e tutto quello che rimane. E quando fisso il cielo non so cosa pensare, non mi rimane neanche una voce che mi possa consolare. Poi guardo le luci e le speranze della mia compagnia e forse vedo un senso in fondo a questa follia. Bisogna lottare per quello che ci resta, tenere sulla testa in questo mare di persone, navigando su una barca senza timone. Vai a rendersi per una causa persa. Bisogna lottare per quello che ci resta, tenere sulla testa in questo mare di persone, navigando su una barca senza timone. Vai a rendersi per una causa persa. Bisogna lottare per quello che ci resta.